rientra nell'interesse sociale, no? Che l'ambiente in cui noi viviamo sia più vivibile di quel che è, non rientra nell'interesse sociale anche che le istituzioni create per il buon funzionamento della vita associata funzionino meglio di quanto funzionano, scuole, ospedali, uffici pubblici, pubblici servizi, siamo tutti persuasi che il loro stato sia di interesse sociale, li guardiamo con occhio critico, infatti spesso anche scuotiamo la testa. Ma si dà il caso di un fotografo intraprendente che ritrae Gabriella Carlucci, star, sorella di Star, se non vado errato, ex candidata del Polo. La ritrae ad una sfilata di moda mentre esce sorridente sulla passerella. La fotografa da sotto in su, da molto sotto in su. Le fotografie escono sul settimanale di turno e l'analista attento non sfugge che alla signorina Carlucci, da quel punto di vista, mancano le mutande. Causa legale, perde il fotografo e perde 30 milioni per il risarcimento al danno morale. Perché è un danno morale in questo paese essere colti senza mutande. L'argomentazione della difesa, tuttavia, ecco, avrebbe meritato miglior sorte. Ha sostenuto l'avvocato che la conoscenza della fotografia in causa era di interesse sociale. Per una volta un'argomentazione darwinianamente ineccepibile.